America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Got some breaking news regarding the full Senate vote confirmation here on Rex Tillerson, who is out to be the next Secretary of State. I've got David. Bene, avete sentito il newscast. Rex Tillerson è stato confermato come prossimo segretario di Stato. Beh, devo dire, molti hanno colto con sollievo questa nomina e credo che i democratici l'abbiano approvata rapidamente, perché Tillerson rappresenta in qualche modo la voce della ragione all'interno dell'amministrazione. A questo punto, essendo segretario di Stato, non credo che potrà succedere che la banda dei quattro, come alcuni la chiamano, quel gruppo di consiglieri alla Casa Bianca molto vicino a Trump ma anche molto indisciplinato e molto di destra, possa prendere delle iniziative senza consentire al presidente di consultarsi con il suo segretario di Stato. Abbiamo avuto anche altre notizie, devo dire, piuttosto interessanti. Per esempio, a un certo punto l'Iran ieri ha deciso, anche loro, voglio dire, potevano evitarsi la provocazione, ma evidentemente ognuno qui cerca di spararla più grossa dell'altro. L'Iran ha fatto un esperimento missilistico e, come sappiamo, i missili servono per portare le testate nucleari, e nonostante ci sia un accordo con gli Stati Uniti per interrompere gli esperimenti nucleari, devo dire, questo lancio ovviamente non è una cosa molto costruttiva in questo momento. E dunque, sentiamo. The Trump administration condemns such actions by Iran that undermine security, prosperity and stability throughout and beyond the Middle East and which places American lives at risk. Ecco, Mike Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, è intervenuto condannando duramente le azioni dell'Iran che minano la sicurezza, la prosperità, la stabilità ben oltre il Medio Oriente e naturalmente in Medio Oriente, e mette a rischio le vite americane. Ecco, Flynn naturalmente ha ricordato che il presidente Trump ha criticato duramente i vari accordi che sono stati siglati fra l'Iran, l'amministrazione, l'accordo multilaterale, l'amministrazione Obama naturalmente, per minimizzare nel corso di 10 anni il perseguimento di obiettivi di armi nucleari da parte dell'Iran. E qual è stato il commento di Flynn? Ecco, dice, anziché ringraziare gli Stati Uniti per aver ceduto su molti fronti firmando un accordo che per noi non è utile, ecco, l'Iran si sente incoraggiato e lancia addirittura i missili. Però, ecco, torniamo al news. Oggi domina la notizia della nomina del giudice della Corte Suprema, il signor Neil Gorsuch, da parte di Donald Trump. Sentiamo Trump, perché anche su questo ha avuto qualcosa da dire. Yes, if we end up with the same gridlock that they've had in Washington for the last longer than 8 years, I would say, if you can, Mitch, go nuclear. Ecco, Trump, come al solito, usa un linguaggio, come dire, così leggero, molto delicato. Dice, se ci ritrovassimo di nuovo in una posizione di stallo per l'approvazione della nomina del giudice, in una posizione di stallo che abbiamo avuto a Washington per più di 8 anni, direi sì, Mitch, vai col nucleare. Insomma, il nucleare che cos'è? È di abbassare il livello del voto necessario per la conferma del giudice della Corte Suprema, cioè ci vorrebbero 60 voti. Se i democratici fanno ostruzionismo, questa maggioranza non si riesce a raggiungere, o comunque la si prolunga per parecchio tempo, e a quel punto ci sono delle procedure interne che potrebbero consentire appunto di far passare la nomina con una maggioranza semplice del 51%. Però, insomma, del giudice si parla molto, perché addirittura un pochino più a destra di Antonin Scalia, che in fondo va a sostituire Antonin Scalia, lo ricorderete, è mancato, è morto all'improvviso circa un anno fa. Obama voleva sostituirlo con un giudice, tra l'altro molto centrista, molto rispettato, eppure i repubblicani, ecco, furono loro in quell'occasione a fare un ostruzionismo assolutamente prolungato. Io con me ai microfoni America 24, Marco Valsania, che lavora qui con me dalla redazione americana e che ha seguito da vicino la nomina di Gorsuch. Ecco Marco, eccoci qua. Devo dire, stiamo passando delle giornate pazzesche con questo Trump, vero o no? Sì, decisamente sì, pazzeschi. Voglio dire, facciamo la notte, poi uno deve rifare il pezzo perché alle 3 del mattino improvvisamente cambia qualche cosa, poi c'è un tweet che rivoluziona tutto. Cioè, io credo che ascoltatori e lettori non si rendono conto di quanto sia difficile per noi questo Trump. Certo, ci dà molta energia, creatività, perché poi si reagisce, però ragazzi, una fatica. Ecco, ma veniamo al giudice. Ecco Marco, che idea ti sei fatto? Qual è la reazione a Gorsuch? Sicuramente Gorsuch, come tu accennavi già, sembra da un punto di vista politico ideologico sicuramente molto chiaro conservatore, forse addirittura più conservatore e più a destra di Antonin Scalia, da un punto di vista però della personalità probabilmente è meno combattivo e meno controverso, proprio come stile, diciamo, di lavoro. Ecco, mi è sembrato infatti dalla conferenza stampa di ieri, conferenza stampa insomma, quando Donald Trump l'ha presentato, mi è sembrato così, come dire, molto ragionevole, molto moderato, una persona di mondo, direi diametralmente opposto a Trump, per cui uno non riesce a capire che dietro questa apparenza così amabile si nasconda una persona che possa avere delle posizioni radicali. Tu pensi che possa davvero intervenire su aborto, su gay, su cose di questo genere? Ma è difficile sempre sapere che tipo di figura diventerà poi il giudice della Corte Suprema, perché proprio grazie alla loro nomina a vita spesso poi hanno così modificato il loro approccio politico e ideologico alle decisioni che poi prendono. Ma sicuramente la sua, diciamo, storia giuridica, la sua carriera mostra, diciamo, posizioni coerentemente conservatrici sulla questione dell'aborto, sulla questione per esempio delle regolamentazioni anche federali e anche su questioni come per esempio il diritto al suicidio assistito. Perfetto. Marco, ultima cosa, ci sono dei giudici, non so, Kennedy 80 anni, Ginsburg 83, Breyer 78, insomma alcuni di questi del pensiero progressista come Ginsburg, come Breyer, che potrebbero essere vicini al ritiro. C'è il timore che si ritirino e che Trump dunque possa aumentare solidamente la maggioranza repubblicana per molti anni a venire? Sì, c'è sicuramente questa possibilità, in particolare potrebbe ritirarsi Kennedy, che è molto vicino a Gorsuch, quindi potrebbe a questo punto lasciare spazio a un'altra nomina per Trump e quindi a un rimoscolamento ulteriore delle maggioranze alla Corte Suprema, degli equilibri alla Corte Suprema e quindi a lasciare il segno decisamente di Trump sulla prossima Corte Suprema per la prossima generazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su America24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dedichiamola al signor Gorsuch, nuovo giudice della Corte Suprema. Io credo che alla fine sarà confermato e dunque dei Tennessee. Good morning, Judge. So I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. I couldn't stop it, so I let it be. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!